elementare, Watson. La scienza risponde alle vostre domande. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Vedrai che molti suggestionabili sentono questa domanda e staranno male. Ah, dici? Io in effetti non sei già un po' mi sento già benissimo. Va bene, allacciamo le cinture e decolliamo con Gianluca. Mi chiedevo come fanno gli aerei di linea che viaggiano ad una quota comunque oltre 10.000 metri a trovare l'ossigeno necessario alla combustione del carburante nei motori e soprattutto come fanno a trovare l'ossigeno per consentire il comfort dei passeggeri. Allora Gianluca, rimanga lì perché noi abbiamo trovato come al solito l'esperto. Questa volta è con noi il pilota Pietro Pallini, che è autore di un libro che risponde a domande di questo genere, che si chiama proprio Allacciate le cinture, i segreti del volo raccontati da un pilota. E ovviamente Pallini è qui con noi. Benvenuto Pallini, rispondiamo subito alla domanda di Gianluca. Beh, l'ossigeno sull'aereo, innanzitutto sgombiamo il campo da un equivoco. Benché noi viaggiamo a quote molto alte e quindi l'atmosfera è molto rarefatta, noi non abbiamo bisogno di portarci dietro l'ossigeno per il funzionamento del motore, cosa che sarebbe impossibile. Un motore, come tutti i motori a combustione, brucia ossigeno e kerosene nel nostro caso in proporzione di 15 a 1, quindi per 10 tonnellate di kerosene, volo di durata media, dovremmo portarci dietro 150 tonnellate di ossigeno, cosa impossibile, diventerebbe una bomba volante. L'ossigeno è pericolosissimo da manipolare in queste condizioni. L'aria la troviamo fuori. Ce n'è abbastanza? Sì, ce n'è abbastanza, anche perché un motore a getto si compone strutturalmente di un compressore, una camera di combustione dove avviene appunto la miscelazione della combustione tra aria e kerosene, e una turbina, dopodiché si passa allo scarico. La turbina, investita dai gas di scarico, serve a far girare il compressore. Quindi noi preleviamo aria dall'esterno, la comprimiamo in maniera di averla adatta, diciamo così, per la combustione del motore, dopodiché brucia e manda avanti l'aereo. Per gli esseri umani è la stessa cosa. Che cosa succede? Lì noi fatichiamo a respirare, invece in aereo no. Bene, durante questo processo di compressione che porta l'aria dall'esterno alle camere di combustione del motore, a un certo punto, a un certo stadio, diciamo noi, una parte di quest'aria viene prelevata, viene fatta passare attraverso un meccanismo che non sto a descrivere nei particolari, il quale ha il compito di filtrarla, portarla a una temperatura adatta, quindi condizionarla, e deumidificarla per evitare problemi di ossidazione e corrosione alle strutture dell'aereo. Dopodiché viene immessa all'interno dell'aereo, respirata dai passeggeri e poi, a tramite apposite valvole, spedita all'esterno e rimpiazzata da altra aria sempre in arrivo tramite questo circuito. Quindi l'aereo praticamente succhia aria dall'esterno in continuazione. E se ne serve per andare avanti e per far respirare chi sta a bordo. Quindi l'aereo risulta come gonfiato dall'interno, mentre fuori siamo a una quota reale di 12.000 metri, all'interno dell'aereo è come se fossimo intorno ai 2.000-2.500 metri a seconda del tipo di aereo. E quindi stiamo bene. E invece nei casi di emergenza, nei casi di allarme, quando si dice che viene giù la famosa mascherina dalla cappelliera? Esatto. Tutto questo bel meccanismo si potrebbe rompere, oppure si potrebbe creare in casi estremi una perdita nella carlinga dell'aeroplano, per cui il palloncino si sgonfia, visto che prima ho fatto l'esempio del palloncino. Ecco. In questo caso ci sono due tipi di ossigeno, forse l'unico vero ossigeno che trasportiamo a bordo è quello contenuto nelle nostre bombole che noi abbiamo in cabina di pilotaggio, che sono collegate ad apposite maschere che noi indossiamo in questi momenti d'emergenza, e da lì respiriamo ossigeno puro. Respiriamo ossigeno puro perché a quelle quote restare in un'atmosfera che non è protetta nei modi in cui vi descrivevo prima, porta alla perdita di conoscenza in pochissimi secondi. Ecco. Siccome noi in quel momento abbiamo da fare una manovra delicatissima, che è quella di far scendere l'aeroplano il più rapidamente possibile per portarlo in sicurezza, a una quota dove sia possibile la sopravvivenza per tutti gli altri che sono dietro, non possiamo assolutamente rischiare di perdere per un attimo, non dico la conoscenza, la lucidità. Quindi l'ossigeno ci è essenziale. Abbiamo un quarto d'ora per fare una manovra di questo genere. In questo quarto d'ora scendono le famose mascherine dei passeggeri. Ecco. Anche da lì esce dell'ossigeno. Nel momento in cui lo sportello si apre ed un passeggero prende una di queste mascherine e se la porta davanti alla bocca, come illustrano gli assistenti di volo prima del volo appunto, si aziona un meccanismo che tramite la reazione chimica tra due elementi produce ossigeno. Quindi attraverso quella mascherina uscirà una certa quantità di ossigeno, non durerà molto, ma in quel poco tempo noi avremo portato l'aeroplano a una quota di 2.500-3.000 metri, 10.000 piedi per l'esattezza se vogliamo essere fiscali, alla quale anche tutti gli altri passeggeri nella cabina potranno tranquillamente, oddio tranquillamente dopo un evento del genere, forse relativamente, ma insomma, ma comunque respirare, ecco, sì. Volevo chiedere una cosa, Pallini, allora questo ossigeno, quest'aria che viene succhiata dall'esterno, dove sono questi bocchettoni nell'aereo che tirano dentro aria? La parte anteriore del motore, quella dove lei vede quella quella specie di grossa ventola che è soltanto, certo, la prima parte del compressore. Di ventole in quel modo via via più piccole dietro ce ne sono fino a 18 e comprimono, ognuna di loro fa una piccola opera di compressione dell'aria verso il cuore del motore dove avviene lo scoppio. Grazie Pallini, e insomma ci risentiamo al prossimo quesito sugli aeroplani. Intanto sta tutto, arriveremo da lei. Come sempre vi ricordo la mail per scriverci e mandarci le vostre domande: elementare@radio24.it, perché Federico rispondiamo a tutto. Per esempio, nei racconti di Batman c'è la Batcaverna, la Batmobile, il Batsegnale che appare nel cielo e il Battelefono. Come mai non ci sono i Battipanni, Battiato posso dirlo? Se ce lo chiedono. Magari sottovoce, le Battone. Elementare, Watson.